però parlarne è un conto e poi farlo è tutto un altro. Noi usciamo dalle esperienze dell'Iraq, dell'Afghanistan, in cui abbiamo visto che dopo che ci sono stati questi cambiamenti di regime è inevitabile che tra la popolazione si crei un disordine che in qualche modo rischia di portare al collasso il paese. Però per un intervento efficace bisognerebbe ricorrere a forze dei paesi occidentali, e i paesi occidentali potrebbero essere visti come neocolonialisti in una situazione di questo genere. Quindi quello che bisognerebbe fare prima di tutto è ottenere un mandato forte da parte delle Nazioni Unite e cercare di coinvolgere in queste attività, operazioni di stabilizzazione altri paesi arabi, perché altrimenti potrebbe succedere che per il primo aumento ci sia anche la possibilità di intervenire, ma poi immediatamente dopo si scatena quel sentimento di antipatia verso chi entra nel proprio paese con alle spalle una storia coloniale oppure anche più recente di interventi in altri paesi islamici con attività qualche volta criticabili.